toglimi un paio di curiosità, Gabriele. La prima, pensavo che la Football Association non vedesse l'ora di liberarsi di Capello, del suo staff, del suo stipendio e di tutte le critiche che lo accompagnano. Sì, questo è vero, non vedono l'ora di salutare Capello e il suo stipendio. Il problema è che allora, la qualificazione all'europeo non è affatto garantita. Loro sono primi nel loro girone a pari punti con il Montenegro, devono andare a una trasferta difficile in Montenegro a ottobre e il rischio è che questi finiscano secondi nel loro girone e dopo devono affrontare uno spareggio e lì può succedere di tutto, anche perché tieni presente, loro si sono già esposti e hanno già detto il prossimo allenatore sarà un inglese, basta stranieri eccetera. Il problema è che gli allenatori inglesi sono, senza voler generalizzare, ma lo posso dire inequivocamente dal primo all'ultimo, sono parecchio scarsi, perché il più accreditato è Harry Redknapp, l'attuale allenatore del Tottenham, che però il mese prossimo ha un processo per frode fiscale e rischia di andare in prigione, e anche qualora scampasse la prigione un commissario tecnico indagato non fa molto piacere. Sicuro. Gli altri sono stati un disastro dopo l'altro, quindi la Football Association non sa che pesci pigliare in questo momento e la mia impressione è che continueranno con Capello almeno fino a qualificazione raggiunta, se non fino a dopo l'Europeo. Sì, quindi essenzialmente un problema di tempi, non hanno esattamente come l'Inter un sostituto da mettere su quella panchina e quindi non vogliono trovarsi nella situazione in cui si trova l'Inter in questo momento.